Tra i vantaggi numerosi dello smettere di fumare c'è sicuramente quello di avere una bocca a prova di bacio. Ne parliamo insieme al professor Luca Levrini, presidente del corso di laurea in igiene dentale all'Università degli Studi dell'Insubria e dirigente medico universitario all'ospedale di Circolo di Varese. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Allora, il fumo fa tanti danni. Sicuramente non ne occorre essere un addetto ai lavori per vedere, no, i danni che fa sulla nostra bocca. I denti gialli del fumatore, o basta avvicinarsi ad un fumatore per sentire questo alito, no, tipico di chi ha appena smesso oppure ha l'abitudine a fumare. Professore, io però inizierei a partire da un consiglio per i fumatori e quindi sottopongono anche le loro mucose a questa offesa, no, che il fumo di sigaretta provoca. Quali consigli possiamo dare? Ma di fatto sì, il fumatore ha sicuramente in uno dei problemi più esprimibili i denti che diventano un pochino gialli, ma anche sicuramente una guarigione dei tessuti che sostengono la gengiva e quindi l'osso che sostiene il dente, una guarigione più lenta. Quindi per chi si sottopone a cure come l'applicazione di impianti, lo smettere di fumare è sicuramente un giovamento, perché permette una guarigione più rapida e sicuramente un inserimento dell'impianto più vantaggioso. Un altro problema, come tu hai detto, è il problema della litosi. La litosi è un problema molto comune che coinvolge più della metà delle persone, in particolare le donne. E il problema della litosi è vissuto in modo particolare dal fumatore. Sgombriamo il campo subito su un equivoco. Lo stomaco non c'entra niente con la litosi. La litosi è generata per il 90% come causa a livello del cavo orale, perché si producono dei composti volatili solforati che si incrementano fumando e quindi il fumatore ha un alito, quindi un cattivo odore della bocca maggiore. Noi abbiamo dimostrato in uno studio che i fumatori nel 73% dei casi utilizzano delle gomme da masticare prima di avvicinarsi a un partner, proprio perché la litosi è un problema più sociale che fisico o di patologia. Quindi i suggerimenti sono: chi deve fare delle cure odontoiatriche, estrazione, impianti, sicuramente lo smettere di fumare è un vantaggio, ma non solo, smettere di fumare è un grosso vantaggio per poter avvicinare con apertura completa chi amiamo o semplicemente con chi lavoriamo, con chi vogliamo confrontarci per un'amicizia. Professore, sono consigliate a tutti, fumatori e non fumatori, le famose sedute di igiene dentale ed è una sorta di manutenzione che facciamo della nostra bocca, un'occasione anche per farci dare una controllata, per far valutare lo stato di salute non solo dei nostri denti ma anche delle nostre gengive. Per chi fuma, le sedute di igiene dentale devono essere più ravvicinate, eseguite con tecniche differenti? Quali consigli può darci? Allora, le sedute di igiene orale sono obbligatorie per tutti, una ogni 12 mesi. Di fatto nel fumatore purtroppo manca quello che si chiama campanello d'allarme, che è il sanguinamento. Perché a tutti i pazienti che hanno la gengivite, che è di fatto la manifestazione dell'infiammazione delle gengive, cioè il fenomeno più classico di malattia delle gengive, sanguinano i denti e quindi vanno dal dentista per fare l'igiene. Purtroppo il fumatore non ha questo tipo di problema e quindi non gli sanguina la gengiva e magari si reca più tardivamente dal dentista. Circa la frequenza. Perché, professore, scusi, non sanguinano le gengive del fumatore? Perché il fumatore ha nella vasocostrizione delle gengive, dei vasi che affluiscono alle gengive, un effetto secondario e quindi hanno le gengive leggermente più resistenti. Sì, assolutamente più resistenti. Ma diventa un danno. Negativamente più resistenti. È un danno perché non si segnala questo campanello d'allarme. Certo. Io suggerisco per i fumatori sicuramente uno ogni 12 mesi, così come per tutti gli altri pazienti. Magari proprio per togliere le pigmentazioni estrinseche che determinano sui denti, magari uno ogni 6 mesi potrebbe essere suggerita. Professore, smettere di fumare fa sempre bene e ha numerosi vantaggi immediati, direi, perché ci sono dei dati che riportano appunto i vantaggi dopo un'ora, un giorno, un mese e così anche a distanza di tempo. Per quanto riguarda la salute orale, quali vantaggi, quando si iniziano ad avere i primi risultati positivi? I primi risultati positivi, la litosi subito, nel senso che bastano poche ore di smettere di fumare perché l'alito torni quello che era prima. Gli altri benefici si hanno per quanto riguarda il guarimento delle ferite, delle sutture, delle applicazioni impianti, è che questi praticamente quasi da subito, perché aumenta quasi istantaneamente la vascolarizzazione dei tessuti. Per quanto riguarda invece il cancro orale si apre un capitolo a parte dove i benefici sono un pochino più lunghi a venire. Ecco, ci siamo dimenticati anche del cancro orale, perché di fatto il cancro orale ha nel fumo una delle cause principali. Ecco, dato che abbiamo aperto questa finestra molto importante e noi giochiamo sempre sulla prevenzione, guardiamo, osserviamo con attenzione la bocca di un fumatore. Quali sono i segnali che chi fuma deve tenere sotto controllo in modo particolare? Il colore delle guance e delle gengive, queste devono essere rose. Se ci sono delle macchie bianche o peggio ancora delle macchie rosse più o meno estese, in questo caso è suggeribile farsi vedere da uno specialista, perché potrebbero essere delle precancerosi, cioè degli stati iniziali di cancro orale, chiamati leucoplachie ed eritroplachie. Quindi un controllo attento possiamo farlo ogni... Può fare anche un'autovalutazione, un'autovalutazione esatto. Ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, si guarda con attenzione allo specchio, le guance, le gengive e sotto la lingua. Se ci sono delle macchie, attenzione. Ecco, rosse, assolutamente attenzione, andare al più presto da uno specialista che possa in qualche modo fare un follow up, fotografarle, verificare magari con una biopsia se è una precancerosi o meno. Professore, dei recenti dati DOCSA del 2011 indicano che il 56% della popolazione italiana inizia a fumare prima dei 17 anni. È un dato preoccupante che merita attenzione con un nuovo, direi, approccio, un nuovo tipo di comunicazione e di sensibilizzazione per evitare che nuovi giovani, sempre più giovani, inizino a fumare. Voi in questo senso vi siete attivati con un'iniziativa, un convegno molto interessante. Sì, più che un convegno, con un modello di formazione. Noi da sempre come università andavamo nelle scuole a insegnare ai ragazzi su cosa fare e su cosa non fare. Ci eravamo un po' stufati di questo modello accademico e frontale di educare i giovani a fare le cose bene e non male. Per cui abbiamo sviluppato da 2 anni un modello di educazione tra pari, di formazione tra pari, che si chiama Peer Education, molto utilizzato in America, proprio per educarli a non fumare in questo caso. Il modello è molto semplice, non si tratta più di uno specialista o un docente che va a spiegare cosa fare e cosa non fare, ma si educa un leader all'interno del gruppo affinché possa educare i propri coetanei, i propri amici. Sì, l'educazione tra pari, che già numerose ricerche sociologiche hanno dimostrato essere la più efficace. Ed è molto, molto interessante. Consideri che, di fatto, in uno studio che abbiamo fatto su questi ragazzi, il 90% sa perfettamente che fumare fa male. Quindi, di fatto, se inizia a fumare, manca la motivazione giusta e la spinta giusta per non iniziare. Probabilmente questa spinta giusta deve avvenire attraverso dei modelli di emulazione tra coetanei, perché si capisca che non è giusto, non è bello, non è, per usare un, non è figo, diciamo, sì, chiaramente, perché è giusto dirlo, perché questo è proprio il motivo, non è quello fumare. E quindi piccoli leader insegnano a non fare e iniziare a fumare. Sono dei dodicenni che fanno delle lezioni con dei contributi video, con delle sessioni di gruppo, tra di loro stimolano a non iniziare a fumare. E di fatto questo si può estendere alla tossicodipendenza, all'alcol. Io credo che questo sia un modello formativo negli istituti scolastici sicuramente importante per il futuro. Noi, avendolo vissuto in quest'anno, abbiamo avuto dei riscontri interessanti, perché tra questi bambini c'erano magari già alcuni che avevano già iniziato a fumare. Ebbene, loro sono stati tra i primi a dire che non lo faranno più, e quindi è importante per noi questo. E poi chissà che questi ragazzini aiutino i genitori che magari stanno fumando a smettere di fumare. Insomma, che l'esempio, la motivazione arrivi dai più giovani. Esatto. Professor Levrini, grazie per essere stato con noi, complimenti e buona giornata. Grazie.